siamo? Let's go! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. Spinge, affonda la Gran Bretagna, affonda Stuart Hinze, scrivono il loro nome nel libro delle anime immortali, nel libro della storia, nessuno prima di loro del 2 senza, siamo medaglia di bronzo ed è pazzesco qui a Rio, è spuntato il sole sotto l'ombra, sotto lo sguardo di Cristo, del Cristo Redentore, vinciamo la medaglia di bronzo. Siamo contentissimi, ci abbiamo creduto dalla prima volta che abbiamo messo piede a Rio, perché questa è una barca cresciuta negli ultimi 20 giorni ma che non ha mai smesso di migliorare. Io sono dei quartieri spagnoli di Napoli e oggi, in questi giorni, migliaia di miei amici, anche gente sconosciuta ci scriveva e non sai quanta forza ti fa questa gente che comunque ti sta vicino, li porto tutti nel cuore veramente. Proviamo ad addolcirvi subito con l'unica medaglia che abbiamo oggi conquistato, Giovanni Capuano. È il giorno forse delle medaglie di legno, però. Sì, e anche delle medaglie per caso, perché quella che abbiamo sentito è una medaglia assolutamente per caso di un equipaggio che un mese fa non c'era. Poi il caso doping di Nicolò Mornati, il 2 senza che si è dovuto ricostruire nell'ultimo preolimpico. E si è ricostruito bene, da quello che abbiamo visto oggi con Marco Di Costanzo e Giovanni Abbagnale, con una B, non c'entra niente con gli Abbagnale. Una B sola, mi raccomando. Che hanno fatto la storia del nostro canottaggio ed è arrivato questo bronzo dietro Nuova Zelanda e Sudafrica, che ci ha anche un po' emozionato. Era credo dal 1948 che il due senza italiano non prendeva una medaglia alle Olimpiadi. E insomma, canottaggio, chi ha una certa età è cresciuto culturalmente nella convinzione che il canottaggio regalasse medaglie come bancomat, poi dopo nelle ultime edizioni purtroppo non è più stato così, e oggi festeggiamo e poi insomma abbiamo anche altri armi che si stanno avvicinando alle finali. C'è un ascoltatore che manda un messaggio WhatsApp 349-238-6666 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6. Questo è anche il numero per i WhatsApp vocali che già abbiamo ricevuto ampiamente nel pomeriggio, ma che stiamo ancora aspettando. Segreteria telefonica per mandare un messaggio a Alex Fazer e magari anche a Sandro Donati, perché questo è l'argomento del giorno, la condanna a morte sportiva del TAS nei confronti di Fazer, dopo questo processo farsa che si è celebrato a Rio de Janeiro alla vigilia della marcia. E poi ognuno ha le sue idee ed è giusto che se le tenga, però dicevamo, è stato anche il giorno delle medaglie di legno, dei quarti posti, uno dei quali si è consumato poco fa ed è quello di Petra Zublasig nella carabina, la fidanzata di Campriani. Poteva essere la coppia d'oro di questa Olimpiade dello sport italiano, invece è un quarto posto, ma non è l'unico. Oggi non è l'unico, questo è particolarmente beffardo, sì, anche perché perché è arrivato nell'ultimo tiro lei quando si è cominciato a sparare in piedi, in realtà era risalita fino alla prima posizione, poi negli ultimi due tiri si è un po' buttata via, ma soprattutto con un 9.2 all'undicesimo tiro, quello dove già c'erano i tagli, quindi si eliminava la quarta, e le due cinesi hanno fatto oltre 10 punti, e quindi Petra Zublasig si è trovata improvvisamente dal podio sicuro alla quarta posizione. Ha dovuto mettere la carabina ed uscire lasciando il passo al podio. Giovanni, c'è chi scrive via WhatsApp: giornata di cacca, una marea di medaglie di legno davanti alla TV, praticamente solo rabbia. Allora aumentiamo la rabbia, facciamo risentire qualcosa. 10.6 per Zhang, 9.2 per Zublazing, 10.5 per Dolì, 10.2 per Engleder, chiude a ridosso del podio Petra Zublazing, quarta posizione per l'altoatesina. Ma non è la sola medaglia di legno, ad esempio un'altra arrivata dal canottaggio. Romano Battisti ci ha messo tutto quel che poteva, dobbiamo accontentarci purtroppo della medaglia di legno, del quarto posto. Giù il cappello su questi due atleti che hanno dimostrato di essere comunque competitivi, peccato, una medaglia ci poteva stare. Il nostro inviato Dario Ricci oggi era proprio il canottaggio, ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Bronzo lo festeggiamo con la Bagnale di Costanzo, però le medaglie di legno ci stanno sullo stomaco, non solo a noi, anche agli ascoltatori. 800240024, tra l'altro, per le vostre chiamate su tutti i temi olimpici e non. Dario. Beh, insomma, sì, certo, bilancio dolce amaro, quello del bacino del canottaggio, e qui nella Lagoa Rodrigo De Freitas, tra l'altro location spettacolare perché siamo proprio sotto al Cristo Redentore che è sulle nostre teste circa 700 metri più in alto. Beh, dicevamo, bellissimo il bronzo di Giovanni Bagnale e Marco Di Costanzo, anche perché questo equipaggio ha una storia del tutto particolare. È un equipaggio che si è costituito nell'ultimo raduno preolimpico perché era stato qualificato da un altro equipaggio che comprendeva quel Nicolò Mornati, che poi è stato squalificato per doping. La carta olimpica c'era, l'equipaggio no, è stato formato in tempi rapidissimi e con risultati straordinari, perché questo bronzo sicuramente lo è stato, soprattutto anche per il modo in cui è arrivato Carlo Giovanni, perché ragazzi ci sono sempre stati a ridosso della terza posizione, nel finale però a fronte anche della rimonta dei britannici sono riusciti a piazzare un ulteriore sprint, un ulteriore spunto e ad arrivare sul podio. Invece, come dicevate, le medaglie di legno arrivano dal duo di coppia con Fossi e Battisti, che chiudono al quarto posto. In questo caso non è riuscita la rimonta sui norvegesi, che hanno conquistato il bronzo alle spalle dei croati e lituani, e poi dal 4 pesi leggeri. Ecco, questo forse era un equipaggio su cui puntavamo e speravamo in qualcosa di più, anche perché era entrato in finale dopo aver vinto la propria semifinale, ma diciamo che i ragazzi non sono riusciti mai ad avvicinarsi effettivamente alle prime tre posizioni, anche se poi ad esempio Martino Goretti ci ha detto nel dopogara: abbiamo cercato di provare a vincere l'oro, non abbiamo cercato di fare una tattica conservativa che magari ci avrebbe potuto portare comunque al podio, abbiamo cercato un o la va o la spacca, ecco, in questo caso ha spaccato, ma tanto di cappello per averci comunque provato. Quindi diciamo bilancio dolce amaro da questa mattinata per i nostri equipaggi, anche se un bronzo pesa tanto, proprio perché, come ricordavate, il canottaggio è stato il bronzo in questa specialità, quindi lo mettiamo in cassaforte, caro Dario Ricci, ci sentiamo più tardi, grazie. Ciao Dario Ricci, il nostro inviato a Rio. Ci sono anche altri risultati da dare. Hai letto dare, l'ultimo eh? Messaggio? Ne ho letto, guarda, mi ha fatto arrabbiare, ma prima diamo i risultati. Pallanuoto donne, perché dobbiamo invece festeggiare il 7 rosa che ha battuto 8-7 l'Australia. Fortissima, e quindi va verso il primo posto nel girone e soprattutto, insomma, conferma di essere arrivato a Rio in forma straordinaria. 3 gol della Garibotti, ma quello decisivo l'ha fatto la Bianconi sul 7-7 davvero in extremis, ed è stata una bella prestazione. Sono in campo in questo momento nel tennis, il cui programma si è un po' rivoluzionato, Sara Errani e Roberta Vinci, che stanno giocando il secondo set del doppio femminile contro la coppia ceca Safarova-Strikova, sono avanti 6-4, 4-3. con un break di vantaggio, quindi stanno servendo 40-30 per il 5-3 e quindi questa, anche questa è potenzialmente una buona notizia. E poi l'altra che cercheremo di raccontarvi insieme alle batterie del nuoto, anche se oggi non c'è tantissimo, così come non siamo presenti nella scherma, l'altra che cercheremo di raccontarvi invece è la canoa slalom K1 femminile con la nostra Stephanie Horn in semifinale, comincia davvero a minuti e poi alle 20 ci sarà la finale. Il messaggio che noi accettiamo, perché accettiamo il parere di chiunque e ne parliamo, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, per i vostri sms anche vocali che mandiamo in onda. Beh, Walter scrive: dovevi farti difendere a Svazer dal Comitato Olimpico Russo. Ma poi c'è un amico che scrive: ancora difendete un dopato recidivo? La condanna a morte sportiva è il minimo per i recidivi. Se è un processo farsa, chiudiamo con lo sport e diamo via libera a tutti e tutto. Oppure dovete difendere il suo protettore paladino dell'antidoping che ci rimette la faccia. Va bene così, andasse a pascolare le mucche in Alto Adige. Noi prendiamo qualunque, prendiamo atto. Però questo a me fa arrabbiare. Anche a me fa arrabbiare, credo anche a molti altri italiani, però è fatale come ci si divida in innocentisti e colpevolisti. Poi abbiamo i nuotatori cinesi che vengono riammessi con strane procedure dopo 3 mesi di squalifica, dopo essere stati beccati positivi all'antidoping. Questo non vuol dire niente, Sono i nuotatori cinesi che fanno la pipì viola. È un'Olimpiade rivoluzionaria da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle denunce degli atleti, e anche dal punto di vista delle procedure, perché quanto si è visto con Schwarzer e con Donati non si era mai visto nella storia dello sport. 800 24 00 24, oppure per i vostri commenti 349 238 6666, li registriamo e li mandiamo in onda. C'è già Giampiero dalla provincia di Teramo, stia lì, traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. Dovete avere un po' di rispetto delle persone, no? Non parlare, non parlare, non parlare. Ah, ma tanto è inutile. Non parlare con nessun altro, non parlare con nessuno. Non parlare con nessuno. Mi sa tanto di una beffa studiata per umiliare Alex Svazer, per umiliare chi di noi gli stava accanto, laddove questo atleta di grande talento sarebbe venuto per conquistare dei risultati, doveva venire invece per prendere la mannaia sopra la testa. Noi, non avendo la prova materiale di chi ha manomesso, abbiamo solo potuto mettere in evidenza come questa presenza di metaboliti contrasta in maniera totale con il quadro complessivo dei controlli fatti. Alex Svazer non è quello che è stato descritto, è un ragazzo timido, è un ragazzo allegro, semplice, con le armi spuntate contro questi volponi che gestiscono lo sport. Eh beh, è chiaro che stiamo parlando di sensazioni, ognuno, e di pensieri, ognuno ha le sue sensazioni e i suoi pensieri, ce li ha e se li tiene su questo caso che dividerà ancora moltissimo, ma anche ad Olimpiadi concluse, perché io credo che Donati non voglia fermarsi qui, non voglia fermarsi a questa sentenza sulle porte di Rio de Janeiro. Giampiero. Sì, dica. Buonasera dottor Genta, grazie per la convocazione. A lei. Senta, volevo chiedere se sapeva, ma è stato controllato, io volevo parlare è stato controllato il 1 gennaio, 7:30 la mattina, no? È stato fatto questo prelievo, giusto? Sì. Se sapeva qual era la data precedente del prelievo, il prelievo precedente, quello successivo, e poi volevo percorrere una strada, non so, io la sentivo nel pomeriggio, non so se qualcuno l'ha detto, ma prendendo Donati, no? Si dice che volevano attaccare lui è sotto... piuttosto che Svazer, ma non potevano, ho sentito che Svazer si era trasferito a Roma per allenarsi, se i controlli non erano molto frequenti, cioè alle 10:30 della mattina alle 10:30 di Capodanno, del 1 gennaio, non poteva andare a farsi fare un piccolo prelievo e comunque cautelarsi, cioè un atleta olimpico avrebbe vinto la medaglia d'oro. Ne ha fatti, ne ha fatti una montagna. Ne ha fatti una montagna, ne ha fatti credo nel solo 2016. Io sto andando a memoria, però il dato è stato raccontato nei giorni scorsi. Ne ha fatti 22 se non sbaglio, sì, una cosa del genere, tutti a sorpresa ovviamente, tutti assolutamente negativi, compreso quello prima e quello poco dopo rispetto a quello del primo gennaio che poi è quello incriminato. Poi c'è chi dice ma giustamente insomma sarà anche stato un processo farsa, ma anche se poi ci sono altri dopati tipo i cinesi non ha nessuna rilevanza se lui è colpevole o meno. Certo, questo è vero. E noi purtroppo questa è la condanna nostra e noi siamo qui a discutere, quindi è una condanna relativa, cioè costretti quasi a ragionare soltanto su sensazioni, cioè la sensazione che non tutto sia andato come questa notte ci ha raccontato il TAS. E che però sarà molto complicato anche poi in sede penale, quando si entrerà nel merito, riuscire a ricostruire tutta questa storia, perché in sede penale si andrà, perché questo è quello che ha intenzione di fare Alex Wazer con il suo entourage. Poi parleremo nelle prossime ore anche con Sandro Donati, che in questo momento è in viaggio verso l'Italia e sta tornando insieme ad Alex Wazer. Però questa è una vicenda che per il momento rimane così, sospesa tra tante cose evidenti, certo, tipo quelle tracce all'interno della provetta, certo, e tra tante cose che invece chiare ed evidenti non lo sono. Chiaro, e adesso si tratta di quantomeno di l'atleta è finito, ma sarebbe comunque ritirato alla fine di queste Olimpiadi qualora le avesse corse. L'atleta è finito, ha 31 anni, non marcerà più, non è più un atleta, è una condanna. Dicevo, una condanna a morte sportiva, quella pronunciata stanotte. A questo punto si tratta però di Alex Wazer, ragazzo uomo che ha subito questa sorta di linciaggio. Non sto dicendo colpevole o criminale di guerra, come dice Leo Turrini, il nostro nume tutelare dalle Olimpiadi. Ciao Leo. Come andiamo ragazzi? Vedo che siete belli carichi, però vorrei dirvi che era già tutto scritto. Era già tutto scritto. Da poche ore. Ma noi siamo più giovani di te, la storia del conte di Montecristo. Ah, ecco, andiamo più indietro. Sì, non della IAF e di Alex Wazer. Alex Wazer è come il Mondantest e il professor Donati è come l'abate Faria. Allora, state a sentire. Sì. Sapevamo che l'epilogo sarebbe stato questo, no? Perché onestamente da una parte c'era la Federazione Mondiale Atletica Leggera che diceva: queste sono le provette, ci sono tracce di steroidi, si chiama testosterone sintetico, no? Sì. Come è stato effettuato il prelievo, le procedure, tutto il resto lo sanno solo loro. E dall'altra parte c'era la storia di trasparenza del conte di Montecristo e dell'abate Faria, che per due anni quasi, tutti i giorni hanno messo in rete i dati, la preparazione, l'allenamento, i test, i controlli. Il 29 dicembre 2015 Schwarzer ha mandato una lettera alla WADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, dicendo: la mia squalifica sta per scadere, sono disposto a essere testato ogni giorno, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Secondo l'ipotesi dell'accusa, mentre faceva tutto questo insieme al professor Donati, di nascosto a Donati, Schwarzer si sarebbe dopato prendendo microgrammi di questo testosterone sintetico. Siamo messi così. Io cosa volete che vi dica? Ho visto Alex stamattina che ripartiva, ce ne siamo già dette tante sull'argomento, quello che abbiamo raccontato qualche giorno fa. Qui ci sono solo due ipotesi, ragazzi, non facciamo finta, certo, di essere ipocriti. Certo. O Schwarzer detto l'altro si giorno dopava di nascosto Donati e quindi è lui il criminale perfetto, sì, recidivo, eccetera, oppure è la vittima di un delitto perfetto, perché questo è stato un processo farsa, sono stati calpestati tutti i diritti alla difesa, l'udienza non è stata pubblica, non sappiamo, al di là di quello che è trapelato, che cosa abbia sostenuto l'accusa, che cosa abbia detto la difesa, e il governo dello sport mondiale è ancora figlio di queste logiche nell'era dei social, di internet, che sono assurde. Ad esempio, io ho sentito dire che, l'ha detto Donati, quindi penso che sia vero, perché lo ha detto anche davanti al Tribunale Arbitrale del CIO, che gli ispettori che dovevano fare il prelievo su Alex Schwarzer la mattina di Capodanno erano stati preavvisati 15 giorni prima, sapevano da chi dovevano andare, quando, come e perché. Anche questa sarebbe un'anomalia procedurale insomma, rilevante, bizzarra. Sì. E poi ve ne dico un'altra e dopo mi taccio, anche perché sono sotto shock per il quarto posto di Petra della carabina. Sotto shock addirittura. Allora, nonostante la cinese Ding Ding abbia vinto la medaglia d'oro nel tennis tavolo femminile, ti chiedono se è la sorella di Dong Dong. Adesso voglio indagare. Bravo, questo è importante. Volevo però completare dicendo, qui parliamo di una roba che riguarda appunto la pipì, il sangue, eccetera, ma mi sembra possibile che non sia ammesso il test del DNA in queste cose? Cioè, questo è incredibile. Cioè, se sei in presenza di un atleta che ha un precedente, cioè, che dice non è vero niente, quindi evidentemente dice lui, hanno manipolato le mie provette, quello che è, c'è una prova regina che toglie qualunque dubbio su questo, che è il test del DNA. Ebbene, per gli statuti del CIO, della Federazione Atletica Mondiale, eccetera, non è ammesso. Leo, questa, questa è la legge, ma ne abbiamo parlato. Voi che siete molto più bravi di me. Io, questa è la legge, Leo. Io dico solo una cosa, perché guarda, rispondo a chi scrive, dice: ma vi rendete conto che state dipingendo come un martire un atleta che ha imbrogliato? A parte che qualche dubbio resta, noi abbiamo il diritto di continuare però a discutere di questa cosa. Nella speranza che prima o poi ci diano quelle risposte. No, ma neanche noi lo stiamo dicendo. No, ma lo diciamo per gli ascoltatori. Se è vera l'ipotesi dell'accusa, l'ho detto prima, allora Alex è un criminale recidivo sul fronte del doping, perché avrebbe ingannato tutta la gente che è attorno. Io non lo so, dico che non mi sembra che ci sia stato un processo, come si dice, voi che avete studiato, equo. Cioè, siamo arrivati a sentenza il giorno prima della gara, unico procedimento, senza possibilità di appello. Insomma, adesso qualche cosa di strano in questa vicenda c'è. Poi ripeto, se lui veramente prendeva i microgranuli di steroidi, allora valgono anche 80 anni di squalifica, non solo 8. Questo è evidente. Il fatto è che da un lato abbiamo una provetta incriminata che ha raccontato postuma una certa verità, dall'altro lato abbiamo comunque un atleta le cui garanzie e anche cui diritti non sono stati rispettati. Questo mi sembra altrettanto pacifico. Poi ha ragione da vendere Leo Turrini quando dice: da una parte può essere un criminale di guerra, dall'altra parte può essere, non dico martire, però un individuo, un atleta soggetto ad un procedimento che presenta delle ombre. No, Leo? No, volevo aggiungere una cosa, Carlo. Se l'ipotesi accusatoria è, diciamo così, dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, non gli debbono dare 8 anni, lo debbono radiare. Anche questo è un passaggio, se vuoi, che non sposta una virgola del discorso, ma che è abbastanza curioso, perché io ti do 8 anni, che magari poi chissà, fra un po' ti diamo uno sconto, uno ha l'età per marciare a Tokyo, volendo ce l'avrebbe, cioè qui c'è qualcosa che non torna anche nell'entità della sanzione. Se Schwarzer, ripeto, è il criminale che si torna a dopare di nascosto a tutto il suo entourage, eccetera, che ha mentito di nuovo, lo dovevano radiare. Certamente. Hai capito? Certamente. Come hanno fatto in altre situazioni, in altri casi. Qua non è che, ripeto, non si sposta nulla, la gara dei 20 km c'è domattina, la 20 km di marcia, la 50 c'è fra qualche giorno, quindi no, il discorso è chiuso nell'immediato. Però ci sono troppe cose che non tornano, secondo me. Sì, anche secondo molti nostri ascoltatori. Biagio da Firenze è già in linea. Ascoltiamo insieme le notizie dalla borsa e poi torniamo a parlarne. 800 24 00 24 è il numero verde. Piena solidarietà a Donati ed Alex Farze. È stato fatto un crimine, un delitto perfetto. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva. A lui bisognava tirargli la bomba. Bam. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Tutti con... convocati alle Olimpiadi. Walzer, colpito al cuore da un arco, buttato a terra da un judoka, è finita la sua carriera. Se Walzer non si fosse mai dopato, questa cosa non sarebbe mai accaduta, quindi è solo colpa di Walzer. Anche a Marco Pantani, prima del Mortirol, i compagni di squadra e il team manager dissero di lasciar vincere qualche tappa anche a altri corridori. La stessa cosa è capitata a Donati. Questi alcuni dei vostri WhatsApp vocali, 349-238-6666, noi registriamo. Segreteria telefonica indirizzata Alex Schwarzer. Biagio, Firenze, buongiorno. Buonasera. Salve, buonasera, grazie per la convocazione. Dica. Due cose. La prima è una mia osservazione, la seconda un punto di discussione ulteriore a questo fatto. La prima è che, come dire, secondo me Schwarz è stato sfortunato perché probabilmente ha trovato l'allenatore sbagliato. Se avesse preso un altro allenatore probabilmente adesso starebbe facendo. Questo l'abbiamo anche detto a Sandro Donati quando è stato nostro ospite di recente. Sicuramente così. Non ci dimentichiamo che Donati gli hanno fatto la guerra negli anni scorsi, negli anni passati. Quindi e lui ha detto questo mi provoca grande dolore, però è quello che pensiamo. Si è tolto qualcuno. L'altro punto che volevo invece portare alla vostra attenzione, ma se il tribunale a Rio avesse avuto tutte queste prove certe, come si diceva prima, perché l'hanno preso altre 10 ore di tempo per decidere, poi si decide venerdì, poi non si decide? Cioè, nel senso, voglio dire, hai te tribunale, hai delle prove certe in mano, alla prima udienza le metti sul tavolo, dici guarda, ci sono le prove, mi dispiace. Dobbiamo aspettare di leggere che dobbiamo cosa scriveranno. Dobbiamo aspettare di leggere le carte. Bisogna leggere le carte. Ho capito, ma se ci sono delle prove intuitivamente, certe, Biagio, intuitivamente hai ragione. Noi inesperti, non come Leo Turrini, vedendo che c'era stata un'udienza vera, 10 ore, e non era scontato, e vedendo questi giorni presi prima di decidere, magari c'eravamo anche quasi illusi che potesse avere un finale diverso. Leo Turrini ci diceva l'esito è quello. Chi lo sa? Intanto vi do due aggiornamenti. Purtroppo le nostre Rani e Vinci hanno subito break contro break e quindi ora siamo un set pari con le due cieche. 6-4, 4-6 e sta iniziando adesso il terzo set. Mentre invece nel nuoto batterie 50 stile libero maschile si sono concluse. C'era Luca Dotto che si è qualificato per la semifinale con il nono tempo 21-87. Fuori invece Federico Bocchi addirittura il 37esimo tempo. Leo Turrini, sai chi abbiamo in linea? No, dimmelo. Un tuo amico, un nostro amico, il CT del ciclismo, Davide Cassani, a proposito di storie epiche, se vuoi, ma tristi di questa Olimpiade. Ciao Davide. Buon pomeriggio. Buonasera. Quasi buonasera per noi, Davide. Stai per prendere l'aereo di ritorno, immagino, e nella valigia metterai quelle immagini che non possiamo dimenticare di una medaglia, di una corsa perfetta, e ti faccio i complimenti pubblicamente, ma te li abbiamo già fatti tutti, e di una corsa perfetta e di una medaglia che sembrava già incasellata nel medagliere, invece com'è finita lo sappiamo. Guarda, quando ho visto Vincenzo a terra mi è cascato il mondo addosso, perché erano mesi che si pensava a questa corsa, perché fin da gennaio con i tecnici della Stana e con lo stesso Vincenzo avevamo studiato ogni minimo particolare, ogni dettaglio, sapevamo che per cercare di vincere l'Olimpiade bisognava assolutamente non fare classifica al tour, infatti i primi quattro dell'ordine d'arrivo di sabato hanno fatto il tour senza fare classifica. Avevamo corso in modo spettacolare, sono stati magnifici i nostri ragazzi e meritavano un risultato che sarebbe arrivato perché Vincenzo era riuscito a staccare tutto tranne Henao e Maika e quindi avrebbe o vinto l'oro o vinto l'argento, non si scappava da lì. Sì. E quindi rimane un po' di amarezza, ma l'orgoglio di

io veramente, guardate, mi farei tagliare un braccio pur di vederlo vincere. Lo sapete che la mamma di Greg, che è qui, odia l'acqua? Ah sì? Che non entra, sì, la mamma di Paltrinieri ha paura di affogare in una bacinella. Davvero? È una storia incredibile. Ha un figlio che è uno dei più grandi personaggi nella storia delle piscine italiane, quantomeno, speriamo, olimpiche fra un paio di giorni. La mamma odia l'acqua, è una storia meravigliosa. Tutte le volte che il bambino andava col papà, che invece è un maestro di nuoto, a fare le prime esperienze, lei cercava di bloccarlo in casa, lo chiudeva a chiave nella cameretta dicendo ma no, ma poi affoga, hai capito? Metti i braccioli! Sono storie italiane fantastiche, non lo so, sarà una gara molto dura perché i 1500 è forse, a parte Phelps, la cosa più attesa delle Olimpiadi. Sono un sacco di fuori classe, non sappiamo ancora questo cinese che piscia viola su Yang se ci sarà o no, a fare non li voglia fare, ha vinto i 200, è arrivato secondo ai 400, poi magari va lì, però, insomma, va lì e poi scappa, va al bagno come quell'altro, di grandissima tensione. E poi dopo, a Dio piacendo, Dio delle Olimpiadi, arriva Usain Bolt. Ci siamo, domani comincia l'atletica. Lo so, domenica Leo, abbiamo però Bolt, la seconda settimana va. Rischiamo di soffrire di le pene dell'inferno. Ci aggrappiamo alla pallavolo e alla pallanuoto in questa, per la seconda settimana. Beh, le ragazze hanno vinto anche oggi, bravissimi, infatti bravissimi. E devo dire, la nazionale maschile stasera passeggerà col Messico, ma dico nel volley, sta giocando veramente forte e insomma potrebbe essere una sorpresa graditissima, anche se c'è questo problema di Birarelli che si è fatto male contro gli americani, bisogna vedere se riesce a recuperare, però ho visto i ragazzi, questi ci credono, questi hanno la sensazione di essere gli outsider che fanno il grande colpo. Gianni, buonasera. Buonasera. Dica. Ho visto tre ragazzi da 14 a 16 anni con delle trombosi, probabilmente delle embolie polmonari, super dopati, hanno fatto l'EPO, hanno fatto l'ormone della crescita e noi siamo vicini a Pescara, è una fabbrica di doping. Dagli ospedali, ci sono state due inchieste, sono spariti tutti gli ormoni della crescita e l'EPO, sono inchieste grandi che erano su tutti i giornali. Ma lei fa il medico? Sono il medico, sono un medico, mi occupo di trombosi, malattie vascolari. 15 anni, 14 anni e la pera, il doping, glielo propone il padre, perché il discorso del doping è che è una cosa talmente diffusa, noi quelli delle Olimpiadi ce ne fregano fino a un certo punto, ma ormai siamo arrivati al livello che i ragazzini per vincere la Villanova Cepacanti vincono un prosciutto, si fanno l'EPO. Quindi bisognerebbe ci sono inchieste in corso? Quella dell'ospedale, degli ospedali che hanno fatto sparire sia EPO che l'ormone della crescita, sì, ci sono delle grosse inchieste con grosse situazioni in corso, ma qui se voi andate a vedere Pescara, Villanova, Cepagatti, c'è anche un corridore famoso che ha vinto il Giro d'Italia, che è stato squalificato diverse volte, Ricco è stato beccato, c'è una fabbrica di doping, ma il doping non riguarda le Olimpiadi, ormai è una cosa diffusa che riguarda il ragazzino di 15 anni, sì, glielo propone il padre. Queste sono storie terrificanti, ma non nuove. Io proporrei la galera, ma la galera, la prigione vera. Sì, perché la radiazione non basta. Cioè, non è che puoi radiare uno da padre, o da genitore, o anche da allenatore di una giovanile. Bisogna fare le giuste indagini. Bisogna fare altro. E poi ci vuole la galera, perché io ripeto la mia posizione che ho espresso molte volte, può essere discutibile, però. Possiamo parlare di doping libero tra i professionisti, oppure all'opposto di radiazione, però sul doping per ragazzini, per i dilettanti, per chi non fa lo sport di mestiere, allora lì ci vuole la galera. Non so se l'Autorini è d'accordo. Che in Italia e non solo, si dopano anche gli amatori, esatto. Cioè non solo i ragazzini. Allora, questo è un grande problema, come si dice, sempre voi che avete studiato, io no, culturale, no? E dobbiamo rendercene conto, nel senso che è troppo semplice prendere l'atleta famoso come capro espiatorio. Prima abbiamo evocato Pantani, ma ci sono tantissimi altri episodi che potrebbero essere segnalati. c'è proprio una incultura per la quale dai ragazzini, ha detto bene chi è intervenuto prima al telefono, no? Al quale il papà sì, suggerisce sì, la pastiglia o il bibitone particolare per vincere la coppetta, fino agli amatori ultra cinquantenni. Allora, questo è un fenomeno che va combattuto, ripeto, è banale, ma veramente con l'insegnamento, dalla scuola, bisogna dire, guardate, chi fa ricorso a certi sistemi per vincere, che si tratti di un torneo rionale o di un'Olimpiade, è un delinquente. Mm-hmm. E come tale va trattato? Così, ci deve essere trasmesso, però ci vorrà una generazione, intendiamoci bene, perché se noi immaginiamo che bastino le belle parole che sto pensando io adesso e fra due anni la piaga del doping è sconfitta in Italia come altrove. Sì, non ha capito così, nulla. Non ha perché capito Donati, nulla. Guardate, Donati ha ragione quando dice ma questa è una cosa enorme, enorme. Avete visto la storia della Russia prima di queste Olimpiadi? La denuncia che ha fatto quel tizio che poi si è rifugiato negli Stati Uniti a proposito delle Olimpiadi di Sochi, no? Cioè ci ha descritto un clima, un'atmosfera nella quale addirittura chi ha responsabilità di governo spinge, autorizza. Certo. Allora, questo deve cambiare completamente, ma non è una cosa che si può affrontare con la legge penale, questo che in Italia non si è capito, e non solo in Italia. I processi penali per doping arrivano a sentenza quando va bene dopo 7 anni, no? Uh-huh. Molto spesso finiscono con prescrizioni. Qui bisogna arrivare come ci siamo, guarda, io lo dico, confesso, così mia moglie si arrabbia, sono un fumatore, no? Però siamo arrivati ad avere una sensibilità che il fumo fa male, che nei locali pubblici non si fuma, i bambini a scuola lo imparano, no? E poi magari, come il caso mio, rompono le scatole ai genitori che hanno ancora il vizio, no? Bisogna fare la stessa cosa sul doping, bisogna cominciare da quando sono piccoli. Bisogna dire, guarda, che se tu ritieni di poter usare una cosa che è proibita per correre più veloce o per saltare più in alto o per marciare più forte, così evochiamo Schwarzer, eccetera, sei un bandito. Certo. Sarai uno che andrà incontro al discredito, alla disistima. È l'unica strada, l'unica strada. Il resto, ripeto, sono dei palliativi. Poi ci si accanisce, talvolta, secondo me, temo, sospetto anche contro il bersaglio sbagliato, pensando che sia sufficiente la lezione illustre, no? Uh-huh. Che sia Panzani a volto, non è così, non è così, io la penso in questo modo. Grazie Leo Turrini, ci sentiamo domani. Ciao Leo. Mi raccomando, perché io senza di voi non vivo, noi, per quanto arrivo. Noi aspettiamo solo questo momento per parlare le 18:15 per telefonare. Per telefonarti in Brasile. Ragazzi, siete meravigliosi. Io veramente vorrei essere gente capuano nella vita. Lo dico. Perché abbiamo qualche anno in meno. Io Leo Turrini, questa è un'altra storia. Allora, un abbraccio. Ciao Leo. Ciao. C'è anche chi dice che il doping dovrebbe essere liberalizzato. C'è la privacy, se uno è maggiorenne fa quello che vuole. Però vediamo. Questa può essere una corrente di pensiero, non facciamo i bacchettoni, può essere una corrente di pensiero su cui discutere. Doping liberalizzato per i professionisti e massimo controllo su giovanili, dilettanti, eccetera. Senti, cosa sono quei segni viola sulla pelle di Phelps? Il cupping che sta spaccando a Rio de Janeiro. Carlo Barbieri, che è uno dei medici più esperti che da anni lo pratica, è quella cosa che vediamo sulle spalle soprattutto di Michael Phelps. Dottor Barbieri, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Che cos'è? Sì, è una pratica tradizionale cinese, consiste nell'applicare delle coppette di vetro cui prima viene tolta l'aria all'interno della coppetta, per cui la coppetta aderisce, succhia tantissimo e rilassa molto la muscolatura. Allora, nella medicina tradizionale cinese viene usata in molte altre situazioni, in molti casi, alcune volte sopra gli aghi, altre volte, io la uso per esempio molto frequentemente nelle situazioni di cefalee, di muscolo tensive, di situazioni di contrazioni lombari. Il gioco è proprio nella suzione, e infatti mi sono divertito a vedere, devo dire, perché perché io ho pazienti che, a cui poi lascia un po' di segno, un po' di livido delle signore, allora sono molto preoccupate, mentre adesso direi abbastanza sdoganata la cosa. Sì, è diventata di anzi, chi non ha in spiaggia in quest'estate un cupping sulle spalle? No, ma dottore, esatto. Dottore, in un minuto mi dice cosa può servire questo ad un atleta professionista? Cioè, toglie il dolore, aumenta... Non solo toglie il dolore, sì, aumenta l'ossigenazione del tessuto localmente, in più se c'è una contrazione, molto spesso questi atleti si spingono al massimo, per cui il muscolo resta contratto anche dopo l'allenamento, applicando la coppetta molto velocemente si ripristina uno stato di normalità, per cui maggiore elasticità del muscolo, maggiore flessibilità, che è quello che viene ricercato. Anch'io sto curando per esempio un giovane che fa cross ed è caduto facendo competizione, è caduto su una spalla e ha una forte contrattura, questo da traumatica, perché con le coppette lui immediatamente sente poi il braccio libero e la spalla libera, per cui fa fisioterapia in modo migliore. Poi sono usate in moltissimi modi, in Cina la usano, non so, per esempio nella medicina estetica cinese la usano per la cellulite sulle cosce, mettendo prima olio e poi passando la coppetta, facendola strisciare, per cui diciamo risucchia tutta la carne, no? Nel caso del muscolo ovviamente, ecco, il più rosso è, più chiaramente il muscolo vuol dire che era molto contratto, infatti si vede che sarà anche estetico, si prepari dottore, perché sarà la grande moda dell'autunno-inverno dopo queste Olimpiadi. Grazie dottor Carlo Barbieri, adesso c'è il GR, però sì, si è appena qualificata per la finale della canoa slalom K1 donne Stefanie Horn, proprio pochi secondi fa, con l'ottavo tempo su 10, finale a partire dalle ore 20. A dopo. Convocati. Andiamo a vincere ancora! Sabato Mondo! Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'è ragione Filippo. Aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto. E noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Convocati alle Olimpiadi. Sentite, lo dicono, non dovete doparvi, non bisogna doparsi, bisogna andare a naturale, tutun, quello lo beccano, lo castagnano e adesso si stupisce perché nessuno si fida più di lui. Processo, non processo, chi sbaglia paga, c'è tanta gente brava, sana, che corre per la voglia di correre e allora non gli si dà la possibilità. Questo ha sbagliato, deve pagare, cambia mestiere, va a fare altro. Se tu annulli completamente la vita sportiva di un atleta, lo puoi fare soltanto attraverso una procedura perfetta e chiara. Questi alcuni dei vostri WhatsApp vocali, 349-238-6666, segreteria telefonica per Alex Schwarzer, Giovanni. Allora, diamo un aggiornamento. Purtroppo Sara Errani e Roberta Vinci sono state eliminate. Quarti di finale doppio femminile, erano avanti 6-4-4-3, un break, hanno perso 4-6-6-4-6-4. fuori dalla coppia della Repubblica Ceca. È in campo il nostro Fabio Fognini, ottavi di finale del singolare maschile, però è un flash, eh? Primo set per Andy Murray 6-1 e siamo in campo nel secondo, nel terzo game del secondo set, 1-1 fin qui. Della canoa slalom vi abbiamo detto con Stefani Horn, che si è classificata con l'ottavo tempo per la finale che inizia alle ore 20, quindi tra poco meno di un'ora. Leggo un messaggio: 349-238-6666. Avevo scritto che lo sport italiano era una catastrofe. Voi avevate detto di no, cambiate mestiere, esperti. Beh, effettivamente, le ultime ore qualche sospetto ce l'hanno fatto venire. Catastrofe, però, mi sembra tanto. Cioè, se intendiamo però, la spedizione italiana alle Olimpiadi, siamo a 12 medaglie. Sì, c'è Gianluca da Como, 800-24-0024. Però, vi voglio far sentire una cosa, perché oggi c'è stata la polemica attorno alle parole di Gianmarco Tamberi, che è stato accreditato di aver detto: beh, insomma, Alex Svazer beccato due volte positivo, di che cosa parliamo? Insomma, è ovvio che venga squalificato pesantemente. Tamberi, che aveva già un passato con Svazer, che aveva definito insomma la vergogna della nazionale italiana. Tamberi, che poi insomma è stato criticato molto anche soprattutto sui social per la presa di posizione di oggi, insomma sembrava un po' infierire su una persona in difficoltà, e aveva smentito di aver detto quelle parole. Ora sul sito della DN Kronos è comparso questo audio. Se fosse stato che era davvero un complotto, cosa davvero difficile che la Vada possa avere un complotto, è una cosa talmente grande che metterebbe veramente sotto soprattutto lo sport mondiale. Se fosse stato davvero un complotto sarebbe stato davvero uno schifo. In questo caso 8 anni sono normali, cioè non è che si può dare, cioè, si può sentenza giusta, non si può quantificare, insomma non so dirti se 8 anni è giusto o no. So dire che comunque se due volte un atleta viene trovato dopato, cioè ormai hanno detto loro che è così, non sono io a dire che è così. Purtroppo non fa parte dello sport, non deve farne parte il doping. Quindi Tamberi le aveva dette queste cose, virgolettato esattamente come era stato riportato. E siccome questa è una vicenda che prende dentro, se uno ha un'opinione e la esprime, e poi la deve difendere e tenere, anche se è un'opinione scomoda e magari insomma era meglio essere un po' più attenti con un collega in difficoltà, però evidentemente c'è sotto qualcosa. Gianluca da Como, buonasera. Buonasera, io mi rilascio proprio alla dichiarazione di Tamberi di poco fa, nel senso che sentivo anche con piacere Leo Turrini in difesa dei giovani contro il doping. Per me il discorso è molto semplice: uno sportivo che viene beccato a doparsi dovrebbe essere squalificato a vita immediatamente. Beh, basta scriverlo sulle tavole della legge, però. Sì, questo, questo può essere una soluzione. Anch'io l'ho detto molte volte. Cioè, sono per prima positività, l'ha detto Phelps, l'hanno detto diversi atleti in questa Olimpiade, che da questo punto di vista è rivoluzionario. Ma è proprio questo il messaggio che dovreste anche voi dare. Più che difendere Schwarz. Ma noi non difendiamo, però, Gianluca. Perdonami, Gianluca. Attira sempre. Giornalisticamente parlando. No, ma non attira niente giornalistica, ma nessuno sta parlando di complotto. Cioè, il tema è, ed è quello che stiamo cercando di dire da diversi giorni, tenendo comunque accesa l'attenzione sulla vicenda di Alex Svazer, è che in una vicenda in cui evidentemente fino a prova contraria esistono dei punti oscuri, delle incongruenze, delle anomalie, e guardate che ve lo diceva anche Davide Cassani è un uomo che vive di sport da quando è bambino, e lo dicono anche tanti altri sportivi. In una vicenda così, in un contesto, in un'Olimpiade in cui alcuni atleti prima vengono tolti, poi riammessi, e ce ne sono altri che si lamentano di questa cosa, in una situazione così, la situazione di Alex Svazer non è chiara. Presta il fianco alle sensazioni. Certo, poi ognuno ha le sue, se le tiene. Ma c'è anche la sensazione che sia stata un'esecuzione fatta per altri motivi, magari per colpire Sandro Donati, personaggio scomodo, e che quel mondo ha combattuto. La verità verrà fuori. Sempre. Non stiamo facendo il sensazionalismo, non è questione di giornalismo, di complottismo, di queste cose. Credi che la verità uscirà prima o poi? Io credo e temo di no, ma non per noi che possiamo anche passarci sopra, credo e temo di no per i diretti protagonisti e chi ha visto le immagini, chi ha visto da vicino, ad esempio Alex Svazer ieri da solo in quel bar, zitto mentre il mondo gli crollava addosso, secondo me qualche domanda, magari qualche riflessione la può fare, oppure no, eh? Antonio? Buonasera. Buonasera. Aiutatemi voi che fate giornalismo sportivo per lavoro. A me sembra di ricordare che la medaglia d'oro di Schwarzer a Pechino non sia stata revocata, voglio dire, non l'hanno trovato dopato quando ha vinto quella medaglia. Mi sembra quindi di capire che Schwarzer, tra tanti atleti a cui revocano le medaglie dopo un periodo neanche tanto lungo di squalifica, tornano in pista, Schwarzer è l'unico che non ha mai corso dopato. E però l'hanno massacrato in questo o quantomeno non è stato, no, tecnicamente, se è vero tutto quello che è stato ricostruito nel 2012, lui probabilmente non ha mai corso dopato, però questo è il passato, cioè noi oggi discutiamo di poi era ricorso a pratiche dopanti e anche questo è un fatto. Io saluto e ringrazio Eugenio Capodacqua, che tra tutti i giornalisti italiani è quello che maggiormente ha studiato il fenomeno doping. Eugenio Capodacqua, inviato di Repubblica. Ciao Eugenio. Buonasera a voi. Buonasera, abbiamo parlato già qualche tempo fa. Io e Giovanni stiamo dicendo, adesso è questione di sensazioni, ognuno ha le sue e se le tiene, su una verità che magari non verrà mai neanche fuori. Ma guarda, io invece da questo punto di vista penso che la verità prima o poi viene a galla. Non ci dimentichiamo che qui siamo soltanto alla prima stazione, cioè il procedimento sportivo fatto con le regole dello sport. Sappiamo che sono regole autoreferenti, che sono organismi autoreferenti, e cioè si fanno le regole, se le aggiustano, le interpretano, eccetera eccetera. Ci sono due denunce alla magistratura, una al Tribunale di Bolzano e una di Roma. Speriamo che un raggio di luce venga da queste due indagini e si riesca chiaramente a chiarire. In realtà uno può avere situazioni di tutti i tipi, però rimangono alcuni dati di fatto. Il fatto, per esempio, di interpretare quello che è successo con la logica. Ora, doparsi con 2-3 molecole di un prodotto vietato 5 mesi prima della gara da disputare non ha senso. Non è una motivazione, cioè non esiste al mondo un dopato bravo o meno bravo che sia che segua una tattica di quel genere. Hanno cercato di dimostrare, di dire sì, però lì era la microdose, però lì è stata la difesa, diciamo, secondo me assolutamente bypassata dal tribunale, dal TAS, cioè non hanno considerato appunto l'importanza della difesa. Proprio evidentemente la sentenza era già stabilita, era già stata fatta. Cioè, secondo te è stata un'esecuzione? È stata un'esecuzione, direi, aggiungerei anche vergognosa, perché viene da quelle stesse strutture sportive, non ci dimentichiamo, che sono ultracorrotte. Cioè la UADA, tanto per citare l'ultimo episodio, ha riammesso il Kenya, dove è successo un casino, un pasticcio tipo Russia, eccetera, eccetera, dicendo sono compliant, cioè sono a posto con rispetto alle regole. Due giorni dopo hanno arrestato uno dei massimi dirigenti della tecnica keniota perché appunto anche lì c'è tutta la storia di doping, eccetera eccetera. Quindi siamo di fronte ad una organizzazione corrotta, i cui membri corrotti sono ancora all'interno di questa redazione, di questa situazione, per cui è impensabile di accettare, diciamo, regole di questo genere. È assolutamente come dire, un suicidio, ed è più probabile appunto che ci sia stata, come dire, la volontà di uccidere, ecco, da questo punto di vista. E di fatto, se guardiamo sul piano umano, qui ci sono due persone che sono state praticamente fucilate alle spalle. Sì. Uno è Sandro Donati e l'altro è Alex Schwarzer. Che effetto ti ha fatto, Eugenio, quello che sta succedendo alle Olimpiadi? Abbiamo visto tanti atleti anche di primo piano, puliti fino a prova contraria, che si stanno ribellando per la presenza degli altri, dei russi, dei cinesi. C'è magari sotto anche tanta politica, è sempre facile trovare il confine in queste vicende. C'è il CIO che dice, per cortesia, mantenete parlate il fair play, parlate sottovoce. Sì, perché loro hanno paura che, insomma, il clamore che si alza, comunque l'attenzione mediatica, in qualche modo disturbi i loro affari. Non ci dimentichiamo che questi signori del CIO è gente che non ha eletto nessuno, sono gente che sono persone cooptate all'interno di questo clan, di questa congregazione, vuoi per un membro con un altro, o in un'altra maniera, ma comunque non è, è gente che non rappresenta lo sport, rappresentano un'oligarchia più o meno, diciamo, legata al mondo dello sport, che ha altri interessi che non sono quelli di tramandare, come dicono, barando ipocritamente i valori dello sport, il rispetto, le regole, eccetera. Altrimenti tutto questo grande situazione di casino non si, si creerebbe. Prima cancelli tutti i russi, poi dici no, un momento, lasciamo decidere le federazioni una per una. Arrivano la federazione atletica, blocca tutti i suoi, la federazione scambio invece li manda. Allora l'atleta che italiano o francese combatte con i russi dice ma come, mi hanno mandato il domani. Cioè è una situazione che dice chiaro e tondo dell'incapacità di questi dirigenti sportivi ad esercitare uno qualsiasi ruolo all'interno del mondo dello sport. È gente che deve andare a casa, cioè non esiste assolutamente che gente di questo genere possa dirigere in una situazione il cui caos è sotto gli occhi di tutti, insomma, cioè che ci sia un caos è evidentissimo. Ma la voce degli atleti può voler dire qualcosa? La voce di Phelps, la voce di degli atleti che in questi giorni hanno parlato, non era mai successo in maniera così dura e aperta? La voce degli atleti è una voce importante. Gli atleti, tra l'altro, nel consesso di questa mega organizzazione sportiva, sono l'unica componente elettiva, quindi in qualche modo rappresentano qualcosa. Però sono deboli. Sono deboli perché? Perché sono sempre lì dietro al ricatto dei soldi, del denaro, del premio, della medaglia, della sistemazione a vita con un lavoro piuttosto che un altro. Perché chiaramente la vita dell'atleta di vertice non è una vita facilissima, ma è una vita scontata, soprattutto in paesi come il nostro dove non c'è una soluzione, diciamo, ai problemi del lavoro che consenta di esercitare lo sport ad alto livello contemporaneamente facendo un altro tipo di lavoro. Quindi sono una componente importante. Secondo me è giusto che facciano sentire la loro voce. Purtroppo in un consesso di questo genere di dirigenti assolutamente incapaci, il fallimento, cioè il casino che c'è, che sta sotto gli occhi di tutti, è la prova provata, cioè non c'è bisogno di aggiungere altro, dirigenti capaci che non sanno gestire e che provocano soltanto il caos. Grazie Eugenio, alla prossima. Grazie. Prego, alla prossima. Grazie Eugenio Capodacqua, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme. Giovanni Capuano, notizie non ce n'è, no? Ma c'è Fognini che finalmente è entrato in partita. No, c'è Fognini che è entrato finalmente in partita in questo secondo set contro Andy Murray. Primo perso 6-1. Fognini è avanti 3-2 nel secondo set. Servizio Murray 15-0 per il nostro tennista. La prima buona notizia che mi dai in tutto il giorno. Beh, c'è anche il bronzo del canottaggio. Vabbè, il bronzo del canottaggio, però questa è la prima buona notizia che mi dai in tutta la giornata. Quindi adesso sentiamo la borsa, poi torniamo con nuovi risultati, con nuovi temi, con altri ascoltatori. 800 24 0024 numero verde. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run, boy, run. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convокати alle Олімпіади. Будь смиренним, будь кротким, не забудься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Non voglio gridare allo scandalo, non sono un ragazzino che si mette a piangere perché gli hanno rubato un incontro, però sicuramente è successo nei quarti di finale, è stata da sorteggio una finale anticipata, perché vedrete che questo mio avversario Tishenko arriverà in finale e penso che vincerà anche le Olimpiadi, quindi è stata una finale anticipata. No, vabbè, non accusiamo nessuno, per carità, no. Non è amico di nessuno, è amico dei russi. No, è brutto, si pensa male, però quando ci sono queste situazioni, sai, due punti così, tiro del culo, insomma, c'è poco da dire. Non l'aspetti, sai quando poi te la fai, porca mignotta, te la fai, proprio ci rimani di merda, però vabbè. Запросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим. Perdere con Kovalev fa parte del gioco, noi l'avevamo messo in conto. Aldo veramente sarebbe giocata e avreste dovuto vederlo allenarsi col tutore a due giorni dall'operazione. Veramente un eroe. Poi però rimane quell'ombra che ti dice ma se me l'avessero fatta giocare fino a fondo, chi lo sa? Ci sono cose che vanno oltre, come i soldi, come le case farmaceutiche, no? Ci sono delle potenze che sono quelle. Quindi il mio non è un dire ok, fanno bene, è un accettare. Есть, например, директор в Иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеется никакого сходства. Io so che ci sono stati oggi due errori a nostro sfavore. A volte ci sono stati due errori a nostro favore, questo sì, è vero. Bisogna essere onesti. Però in generale, quando si scende in pedana con un russo, lei non è sereno. Nessuno. Nessuno. На шее стронгуляционная борода. Capitolo polemica, il violone delle Olimpiadi. Fognini ha fatto il break, Ma dai, è avanti 4-2 con Andy Murray nel secondo set dopo aver perso il primo. Pensa che c'è Emanuele che prima aveva scritto: non so cosa stia accadendo a Fognini, ma sta giocando con la voglia di un ragioniere in pensione. Ma questo è relativo al primo set. Fabio Fognini è fatto così, un set fa il ragioniere in pensione, un set fa il tennista, poi magari il set dopo o anche il game dopo, perché adesso in realtà Murray è avanti 30-0 sul servizio di Fognini. Speriamo di no. Vi aggiungo qualcosina di Montano che sta rientrando e ha scritto un post su Facebook. Lui dice: insomma, fa male perdere così, avrei voluto regalare a tutti i miei tifosi una medaglia. E a un certo punto scrive: avrei tanti sassolini da togliermi, non ultimo un arbitro che palesemente mi ha negato due stoccate. La potenza della Russia è innegabile, ma anche qui esistono due pesi e due misure e nemmeno il CIO ha avuto il coraggio di prendere posizioni nette sulla faccenda del doping. Malgrado tutto, io torno in Italia triste ma sereno perché ho dato il massimo. Hai capito, quindi polemiche arbitrali, polemiche contro il doping. In questo pensiero di Aldo Montano ci sta dentro un po' di tutto. Ieri è stata ragionata dell'Italia contro la Russia. Italia contro la Russia, le abbiamo beccate nella scherma con la Di Francesca, però, con Montano, con Clemente Russo. A proposito, l'abbiamo sentito prima in questo bellissimo montaggio su Clemente Russo. Paolo Vidoz, medaglia di bronzo a Sydney. Ciao Paolone. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, siamo d'accordo con Clemente Russo, siamo d'accordo con il complottismo degli ex comunisti? Sì, sì, questi comunisti magna bambini, fa sempre quel che voglio. Ma no, ma non si può dire così. Ricominciamo da capo. Già ai miei tempi erano sempre questi problemi del giudizio, perché comunque chi decide le giurie, eccetera, è colui che comanda un po' tira le redini della box mondiale. Di per cui, se al posto sbagliato, se la gente è sbagliata, succede queste robe qua. Ma Russo aveva ragione, comunque ha ragione a lamentarsi, sì. Perché è controversa la cosa di ieri di Russo. L'ho cercato in internet, però la Rai ha preso da un attacco di tirchite, non l'aveva ancora messo, quindi non posso giudicare il match non avendolo visto. Avendo sentito però i commenti dei più, insomma, se si gara la metà così tanto, che devo ragione. Ma non avevano fatto in modo che la box almeno alle Olimpiadi fosse diventato qualcosa in cui il giudizio era abbastanza oggettivo dopo tanti scandali del passato? Insomma, ne abbiamo anche parlato settimana scorsa. I più grossi scandali delle Olimpiadi è stato la finale dei Roy Jones nell'88 a Seoul, questo è stato preceduta dal quarto di finale con Nardello. Esatto, queste sono state proprio cose eclatanti. Altri giudizi, altri verdetti scandalosi, ma sai che bisogna leggerli in anticipo la box, perché basta che ti dà una ripresa persa e poi il match già cambia e per attaccare, per cercare di rimontare, bisogna scoprirsi, di per cui magari perdi il match per attaccare. Ecco, perché è questo che dicono di ieri. Si sfasa il match, la lettura è diversa, se veramente bisogna essere dei intenditori per capire bene come manovrare questi match. Perché la box alle Olimpiadi è diversa, cioè son tre round e difatti tanti dicono: ma guardate che il secondo e il terzo round ieri in realtà Clemente Russo le ha anche prese dal suo avversario, ma quello contestato è il primo round che Clemente Russo molto probabilmente aveva vinto e che invece i giudici hanno dato all'unanimità al Russo e che poi insomma ha cambiato il senso dei due dopo, perché alle Olimpiadi funziona così, non è sui 10, sui 12, chiaro. Il tempo per fare un ragionamento molto più ampio, no Paolone? Sì, ma una volta che te canta queste piccole cose, poi se è falsa, tutto il match è falsa. Anche quando ero io alle Olimpiadi, era il periodo che dalle macchinette, cioè dalle dal giudizio quel dei arbitri era passati al giudizio quel delle macchinette. Praticamente ogni pugno che si ceppava o si dava veniva segnato un punto. Cosa è successo poi? Che anche lì in questo caso gli arbitri si facevano l'occhiolino, si mettevano d'accordo e se te voleva curarti il match te lo curava. Non si può dire, scusami. No, si può, tranquillo. Si può. No, perché c'è la mia amorosa che saluto, Rossella, che ascolta sempre la Zanzara e allora c'è sempre casino anche lì. Sì, ma noi non siamo la Zanzara, però l'orario è lo stesso. Però diamo fastidio uguale a molti, diamo fastidio uguale. Sì, e quindi praticamente con queste macchinette riusciva tendenzialmente a cercare di imbrogliare un po' meno, questo è stato messo come sistema di giudizio. Poi alla fine che ha scoperto che anche lì era tutta una farsa, perché anche lì gli arbitri si mettevano d'accordo e si è ripassati a questo sistema del giudizio personale. Però non te puoi mettere degli arbitri, adesso non so gli arbitri che erano nel match del Russo contro Ischenko, Russo contro Russo. Sì, sì. Mi pare che era un egiziano, un marocchino, una roba. Nel senso che voi arbitri che è una federazione molto forte, Brio, nel senso che può il Verdi no, ti ha vinto, ti ha perso, eccetera. Se siete delle federazioni, degli arbitri che hanno delle federazioni molto deboli o dei piccoli stati, eccetera, se sotto i comandi dei grossi dell'AIBA, insomma, no? Ci stai dando delle ottime motivazioni per restare qui altri 9 giorni a parlare di Olimpiadi, eh? Perché noi siamo degli ingenui, capito? Noi pensiamo che si va lì, vince il migliore, c'è il migliore. Magari ogni tanto invece, un po' sfigato, invece arrivano gli ex comunisti che sono ex comunisti, magna bambini, sono più potenti di tutti, giusto? Ma sì, non sei ex comunisti, eccetera, se comunque il potere delle Olimpiadi e gli interessi che sei con la boxe, eccetera, o negli altri sport, perché comunque gli sport di giudizio, sinceramente, è sempre un giudizio personale, quindi sei inattaccabile. Anche Miele che mandavo i tuffi, eccetera, era dei tuffi, sebbene io non sono né un giudice dei tuffi, lei chiede che, a mio parere, perché avessi dato molto meno il voto da un tuffo a un altro, ma i giudici si stava trasportando dalla nazionalità, scusami, ma capivo il dialetto corinziano, devo parlare italiano? Assolutamente, vai tranquillo. No, perché se no mi mettevo i sottotitoli, la mettevo. In radio è dura. In radio è dura, sì. ma possiamo fare si chiama voice over. Guarda, però il messaggio più bello, no, glielo leggo, perché l'ha scritto Armando da Pescara, è proprio appena arrivato, 349-238-6666. E chiede: ma non è che i giudici hanno fatto casino, volevano dare il round a Russo e invece l'hanno dato a Russo? Io se un giudice non sa riconoscere il rosso dal blu, vuol dire che sei proprio in trio come le balle del cane, insomma, rosso e blu, bianco e nero, zucchero. Insomma, è abbastanza facile da comprendere. Non è difficile. C'è Paolo da Mestre che mi scrive: Vidoz ospite fisso. Torneremo a chiamarti in questi giorni, Paolo. Tieni il telefono in carica. Grazie, ciao, Paolo. Alla prossima. Ciao, Paolo. Ciao. Vidoz. Oh, intanto il nostro Fabione Fognini, 6-2. Il ragioniere. 36 minuti ha vissuto un set da tennis. Il ragioniere Fognini? Quindi 1-6-6-2. E adesso va a servire all'inizio del terzo e decisivo set. Mario contro, da Verona contro Andy Murray. Attenzione, Mario. Sì, buonasera. No, io volevo fare così un commento sulla vicenda del nostro marciatore che è stato squalificato. Sì, ecco, sì. Io volevo esprimere la mia vicinanza a livello umano, perché ho quasi l'impressione che qualcuno, se potesse, lo corteggerebbe anche. Ecco. E credo che nella vita ognuno, al di là, insomma, del fatto che possa essere più o meno innocente, insomma, questo non so, forse con gli anni lo capiremo, però nella vita si può sbagliare, quindi quei commenti molto drastici di dire squalifichiamo la vita, ma io non so se poi questi signori nella vita normale siano così severi, ecco. Beh, di fatto è stato squalificato a vita e ora avessimo la certezza di una colpevolezza saremmo tutti qui a fare commenti dello stesso segno. Il discorso, Mario, è che in questa vicenda manca la luce della chiarezza per molti aspetti che abbiamo provato a sottolineare. Poi la vicinanza umana è ovvia. No, ma appunto come a Sandro Donati. Mi perdoni, io condivido questa tesi. Io mi riferisco proprio a chi non è evidentemente coinvolto direttamente, non è un esperto, che dà giudizi così affrettati. Veramente mi sembra abbastanza stucchevole, ecco, capisco i social, o meglio, no, no, no, non li capisco, perché lì c'è una questione dei 160 caratteri che ahimè 140 ecco 140 sì, però quindi, quindi bisogna umano... essere stringati o è bianco o è nero, no, è ma poi quando scrivi senza metterci la faccia, quando è facile scrivere un SMS, un WhatsApp anche a noi coprendoci di insulti, poi magari il confronto dialettico diventa qualcosa di diverso. Allora, traffico, poi torniamo subito con un grande ospite. Non c'è traffico. E allora due settimane che siamo in... No, però c'è Michael Phelps. C'è Michael Phelps che è a caccia di più della leggenda. Dovranno inventare dei neologismi. Che faceva anche lui le batterie dei 100 farfalla, dove il nostro Piero Codia si è qualificato per la semifinale con il sesto tempo 51-72, Michael Phelps è dentro con il quarto tempo 51-60. Sì, ma tanto poi conosciamo il finale. Allora vi faccio sentire è iniziato il torneo di golf disertato dai più, vi faccio sentire una voce di Manassero. È un'esperienza in questo momento fantastica, il fatto di mangiare insieme in tavoloni insieme ad altri atleti, e cercare di capire cosa fanno, vedere ovviamente facce che hai già visto in TV e già tifato in TV, e capire un po' di più la personalità di quelli che possono essere stati i tuoi tra virgolette idoli, è ovviamente speciale, da un'opportunità che non mi sarei mai fatto sfuggire. Adesso che sono qua sono felicissimo. Questo era Matteo Manassero e noi abbiamo in linea uno dei pochissimi che in questo torneo di golf si sono presentati prima volta alle Olimpiadi, ma avevano altro da fare. Allora, io saluto e ringrazio il nostro grande amico Massimo Mauro, con il quale oggi non parliamo di calcio, di piccolezze di questo tipo, ma parliamo di golf. Ciao Massimo. sai che sono proprio... Sì, guarda, sei troppo forte, perché sai anche che sono bravo a golf. Quindi... Ma io so tutto. So anche che sei vicinissimo al mondo del golf, so anche che con Vialli organizzi diversi tornei a scopo benefico, so anche che collabori con il club, golf club di Torino. Guarda che io ho un sacco di cose su di te. Beh, con Royal Park. Infatti. Senti Massimo, allora, questo torneo olimpico di golf lo guardiamo o cambiamo canale, guardiamo qualche master che è più interessante? No, onestamente dal punto di vista golfistico i major sono più interessanti. Però Matteo ha detto una cosa straordinaria, che io ho vissuto purtroppo moltissimi anni fa, nell'88, vivere il villaggio olimpico è un'esperienza unica, è un'esperienza straordinaria per uno che ama lo sport. E quindi solo quello vale andare alle Olimpiadi, cioè è un'esperienza davvero fantastica. Io ricordo, non so, la Sabatini, la Graf, Edberg, adesso dico i tennisti, ma c'era Ben Johnson nell'88, sì. No? Fu la storia, fu sì. Preso al doping. Insomma, perciò dico, chissà cosa capiterà adesso fra un mese quando si commenteranno le Olimpiadi brasiliane, quindi è un'esperienza fantastica, è da fare. Golfisticamente mi sembra poca roba, una cosa sottotono. Sì, sì, ma scusa, allora perché è una cosa da fare, siamo d'accordo, i golfisti sono abituati, come anche i calciatori, diciamoci la verità, a vivere in un mondo diverso. Gli americani del basket stanno sulla porta aerea ormeggiata al largo tra tutti i comfort, non sono al villaggio olimpico. Se è un'esperienza così emozionante per uno sportivo, perché i golfisti, come dicono a Bologna, l'hanno data su, secondo te? Beh, sta storia della zanzara un po', no? Giochi all'aria aperta. Sì, no, no, adesso cerco di trovare delle cose. La verità è che i primi 30, 40 golfisti al mondo insomma, guadagnano talmente tanto e sono... Ecco, io dico che forse il professionismo esasperato fa bene a non andare alle Olimpiadi. Non so come dire, ma è una decisione dell'atleta, è giusto che la federazione porti i migliori. Però l'atleta, non lo so, forse è il caso di non andare a partecipare a manifestazioni. Sì, però Massimo, poi vedi Djokovic, che certamente guadagna come i golfisti o poco meno, sì. Insomma, che perde al primo turno e piange come credo non abbia mai fatto in vita sua. Cioè ne avrà persi di primi turni Djokovic nella sua vita, anche da numero uno del mondo, o secondi, o grandissime delusioni. Io non ricordo di averlo visto piangere. Sì, sono d'accordo, ma è personale, io ripeto, è personale. La federazione fa bene a dire ai migliori che devono andare. Poi il migliore però... Ecco, o hai sentimenti di Djokovic, o di Kobe Bryant, o di Magic Johnson, adesso parlo di grandi, no, dei miei tempi, che hanno voluto andare a vincere le Olimpiadi, perché la medaglia olimpica è la cosa più bella, insieme forse ai mondiali di calcio, no, per me, certo, che ho fatto calcio, forse, certo, è il massimo per un atleta. Sì, Mauro, Massimo, che stiamo intanto ti diamo una notizia: Matteo Manassero è nono dopo il primo giro, meno, no, due, no, meno due sul par. C'è in testa Marcus Fraser, australiano, che viene che a giocare alle nostre gare, pensa. Hai Marcus visto? Fraser è uno di quelli che viene a giocare alle nostre gare. Ma quindi gare. Vuol dire che è buono, è uno dei vostri, che, è uno che bravo, scarso, sì. Cioè, no, no, è bravo. Guarda, guarda che noi facciamo una gara dove vengono i primi 50 del tour europeo, cioè non facciamo... Sapevo anche questa, sapevo anche questa. Ancora ovviamente per finanziare la ricerca sulla SLA. Senti, ma con Vialli chi vince tra te e Vialli? Questa non, trovo, no, questa non la so. Ce l'ho più basso io ho 5, Luca mi pare che ha 8, però Luca... gioca bene, uno che non molla mai. Io sono un pochettino più come calcio, Luca, sì. Luca aveva i piedi di gesso e io ero un pochettino più tecnico. Però i piedi di gesso non glielo dici di presenza, non mollava perché... mai. Luca non mollava mai. Adesso lo chiamo e glielo dico. Adesso lo chiamo. Adesso lo chiamo. Che ti confermerà. Adesso lo chiamo e glielo dico. Massimo, per chiudere, stiamo parlando oggi di sensazioni, stiamo parlando del caso di Schwarzer, eccetera. Stiamo dicendo che ognuno ha una sensazione, non delle certezze, ce l'ha e se la tiene. La tua qual è? La mia è che ha pagato, cioè aveva pagato e doveva gareggiare. Io mi fido sempre delle istituzioni, io credo alla giustizia, e quindi se lo hanno squalificato un'altra volta vuol dire che lo hanno trovato non a posto, e mi dispiace molto, e quindi mi devo fidare di quello che succede ufficialmente. Grazie, Massimo. La caccia alle streghe l'hanno fatta tutti, quelli che hanno avuto delle condanne. L'hanno fatta tutti, e poi soprattutto ci vogliono le prove, perché possiamo pensare, avere le sensazioni che vogliamo, però alla fine carta canta, tu dici. Grazie, Massimo, sentiamo presto. Grazie a voi, ciao. Io non sono d'accordo col messaggio che è arrivato di un amico, non si firma, però dice: bisogna essere sinceri, se anche Svazer avesse vinto la marcia non avrebbe festeggiato nessuno. Perché nessuno si fidava più. Ma che io avrei, anzi sarebbe stata una storia meravigliosa. Forse ha maggior ragione. Sarebbe stata una storia meravigliosa. Può essere vero invece l'opposto, Giovanni. Poteva essere appunto il motivo per festeggiare doppiamente. Ma anche qui siamo nel campo della pura ipotesi e delle sensazioni. Ognuno. Tanto Fognini avanti 1-0 nel terzo set contro Andy Murray, che è al servizio. Ma grande. E ha cambiato maglietta, evidentemente sta sudando contro il ragionier Fognini. Il ragionier Fognini. Claudio, buonasera. Pronto? Pronto, dica. Sono io, sì? Sì. Sì, no, io avevo chiamato per... il caso Schwarz, solo per dire questo, una cosa che sarà veramente banale. Lo sport deve essere una cosa pulita, giusto? E questo è stato beccato la prima volta, ha ammesso di essersi dopato, ha messo nei guai purtroppo la sua fidanzata, ha preso più squalifica di lui. L'ha messa nei guai. Questo ci è ricascato un'altra volta. Lo sport deve essere una cosa pulita. Io sono con Tamperi, fuori dalle scatole. Tamperi, non... sì. Sì, Tamperi, no, ma, sì, il saltatore, sì, dell'alto. Claudio, ma è del tutto fuori legittimo. Fuori dalle scatole, fine. E poi fare tutti questi discorsi, ma i russi sono... Ma però sai, Claudio, il problema è che Tamberi nella sua carriera ha saltato, salterà ancora, conviverà in altri villaggi, perché Tamberi è giovane, andrà a Tokyo, insomma noi glielo auguriamo, tra l'altro è stato sfortunatissimo a farsi male alla vigilia di queste Olimpiadi, conviverà con tanti che hanno sbagliato una, due volte, hanno situazioni così, e... alle volte c'è anche un po' di accanimento nei momenti, nel contesto in cui si esprimono dei pareri, ed è questo. E oggi Tamberi poi a un certo punto ha detto che non aveva detto delle cose, l'audio l'abbiamo sentito, almeno se uno ha un'opinione. È un'opinione che sia di un segno o di un altro, come Claudio, rispetto alla nostra, se uno ha un'opinione è giusto che la esprima, che se la tenga e che la difenda. Sai che abbiamo in linea? C'è qualcun altro che ogni tanto fa ragioniere e ogni tanto fa il grande. Fa il grande sportivo. È il Brasile del calcio. Il Brasile del ha calcio. Ha fatto per due partite il ragioniere. Poi questa notte, improvvisamente, 4-0 la Danimarca e qualificazione. José Altafini, buonasera. Ciao José. Cosa avete bisogno di fare una dichiarazione di redditi? La dichiarazione? Ma senti, ma a chi lo dici? Che ci sono i tuoi connazionali che cancellavano il nome di Neymar sulle magliette per mettere quello delle campionesse della nazionale femminile. Erano loro, insomma, che trattavano male il Brasile. Ma no, dai, sai cosa succede? Che dopo quella esibizione orrenda del mondiale, che il pubblico brasiliano, gli sportivi brasiliani sono un po' rivoltati, capisci? Qualunque cosa succede, loro chiaramente dissentono, fischiano, eccetera. Però io, guarda, io dico la verità, io ho invidiato bonariamente l'Argentina, che ha 5, 6, 10 attaccanti. Il Brasile non aveva neanche uno, avevamo Hulk, che pensa che non so come fanno da 20 milioni a un giocatore così. Sì. Vabbè. Allora, adesso il Brasile ha questi tre giocatori che è una speranza, un futuro. Soprattutto Gabigol. Gabigol è un giocatore che sta dimostrando che è pronto per l'Italia, più di Gabriel Jesus, che l'avevo scoperto io tanto 3 anni fa. Capito? Ma quindi fa bene l'Inter a pensare di spendere 20-30 milioni per Gabigol? Secondo me qualunque squadra che lo prenda fa benissimo, perché è un giocatore che ha dato capo al calcio europeo sicuramente. È bravo, tira bene, è un tecnicamente molto valido. Mi è piaciuto molto. Dei tre, chiaramente noi Neymar è il numero uno, lui viene lui dopo e poi Gabriel Jesus. Devo dire che questi tre giocatori saranno il futuro del Brasile. Naturalmente in Brasile nascono i giocatori con una velocità incredibile. Sì, ci mettono sempre 9 mesi, però ne nascono tanti. No, ma senti, secondo te se il Brasile riesce a portare a casa questa medaglia d'oro, i brasiliani cancellano definitivamente la vergogna di quel 7-1? No, non cancellano, perché noi abbiamo 11 anni quando il Brasile perse il mondiale, no? Di 50. È una cosa che non si cancella più, sono due cose, sono due macchie che non, sai che non si sono, non si puoi lavare finché vuoi, ma non va via. Rimane un dolore nel cuore quello lì. C'è stata una umiliazione. Forse per quella del 7-1 ancora peggio del mondiale del 50. Perché almeno ha perso con una squadra che l'Uruguay era una squadra forte. Io penso che non cancelleranno. L'unica cosa è che lo sport, il calcio, è sempre così, no? Vittoria cancella sconfitta, dolore, la felicità uccide la tristezza. Bene, sai cosa vuoi dire? Se te ricordi la canzone di Tonino Carotone che diceva: oh, è un mondo difficile, è un mondo difficile. Vita intensa, felicità a momenti, futuro incerto, è tutto questo. Grazie José, grazie davvero, ciao. Ciao, ciao, ciao Giuseppe Tafini. Ciao ragazzi, buona continuazione. Grazie. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Fognini ha avuto una palla break sull'1-1 sull'1-0 per lui, cioè, nel terzo set. Mi sono spaventato. Anche Andy Murray, che però è riuscito ad annullarla, adesso è vantaggio sul servizio. Ma il ragionier Fognini sta facendo sul serio. Cioè, dopo tutto il giorno che mi dai pessime notizie, compresa l'eliminazione di Errani Vinci, adesso ci provi al photo finish. Ma abbiamo finito, Giovanni. E fra 5 minuti tutti a tifare Stefanie Horn nella finale della Canoa Slalom K1. Guarda, mi hai fatto talmente arrabbiare. Se siete in macchina, andate all'autogrill e seguite. Mi hai fatto talmente arrabbiare che domani ti lascio solo. Sia dalle 14 alle 15 che nell'appuntamento serale con tutti i convocati alle Olimpiadi. Solo. Con i nostri amici a casa. 800 24 0024. Vi aspetto, anche domani. Grazie Giovanni Capuano. Io ringrazio ovviamente anche Pietro Lacorte in regia, Leonardo Sirigato e Lorenzo Rotella in redazione, Claudio Schiattone il nostro autore. Ci sentiamo domani. Cosa ha fatto Fognini? Cosa ha fatto Fognini? Buonanotte, vado a riposare, perché devo dire la verità, sono cotto stasera. Tutti convocati. Ci vediamo domani. Enjoy.